Questo libro l'ho scritto non nella forma letteraria del giallo della spy story, ma andando alla ricerca di documenti che riguardassero Pasolini e documenti in modo particolare del servizio segreto militare, di allora si chiamava SID, che riguardassero per l'appunto l'attività e la voce culturale di Pierpaolo Pasolini in un ambito particolare che è quello dello stragismo italiano. Piazza Fontana 12 dicembre 1969, Piazza della Loggia 28 maggio 1974. All'epoca della morte di Pierpaolo Pasolini, le stragi, le prime tre grandi stragi italiane, fra cui quella di Piazza Fontana, dell'Italicus e di Piazza della Loggia del 74, erano già avvenute. Pierpaolo Pasolini scrisse importanti articoli su questo tema e sul cosiddetto nuovo potere senza volto, come lui lo definiva, affrontando questo nuovo potere anche nelle pagine di Petrolio. Il lavoro di ricerca quindi si è incentrato nella individuazione di fonti del servizio segreto militare che abbiamo trovato su queste attività di Pasolini e che ci danno la prova che il SID aveva schedato Pierpaolo Pasolini, si occupava delle sue attività. E abbiamo trovato numerose relazioni dei centri di controspionaggio del SID inviate al reparto D che riferiscono per l'appunto tutta l'attività che Pasolini stava facendo sul 12 dicembre e sulla ricerca, diciamo, intellettuale, ma una ricerca anche di fonti relative alla strategia della tensione. È saltato fuori un importante carteggio fra Pasolini e Giovanni Ventura, all'epoca imputato assieme a Franco Freda per la strage di Piazza Fontana, un carteggio non ancora, come dire, individuato totalmente ma parzialmente, ma quel che già è stato trovato è molto rivelatore del fatto che Pierpaolo Pasolini cercasse delle fonti interne a quel mondo e a quella realtà per poterne raccontare. Stesso dicasi le fonti interne alla criminalità romana del tempo, una criminalità che fece proprio in quel passaggio storico un salto di qualità che di lì a qualche anno avrebbe creato la nota banda della Magliana. Quindi è un libro che compendia questa documentazione del SID, il carteggio Ventura Pasolini e poi tutta una serie di testimonianze dirette, testimoni oculari, persone che hanno visto e sentito nella notte dell'idroscalo e che si raccontano della presenza di 6-7 persone nel massacro del poeta Pasolini. Quindi questo lavoro è un lavoro che cerca di ricostruire tutta una serie di attività di minaccia a Paolo Pasolini che hanno preceduto la morte, un cerchio che gli si è stretto intorno nell'arco dell'ultimo anno e mezzo di vita e queste fonti inedite in grado di aggiungere dei pezzi molto significativi, io credo, nel puzzle della storia della sua morte. La verità ufficiale, la ricordava lei, è quella del processo a Giuseppe Perosi. Una decina di anni fa Giuseppe Perosi ha iniziato a dire altre verità, ma al di là di cosa disse Giuseppe Perosi, che è morto peraltro qualche mese fa, emergono dei dati, come dire, piuttosto inequivocabili sul contesto di quell'evento. Perché è importante non adagiarsi alla verità ufficiale, proprio perché esistono delle fonti, con quelle dobbiamo fare i conti e partendo da queste fonti forse si può aggiungere qualcos'altro o in un'indagine giudiziaria che dovranno i magistrati valutare se fare o con le attività di una commissione parlamentare di inchiesta se il Parlamento terrà e si assumerà la responsabilità politica di approvarla. Il problema era che Pasolini si stava avvicinando comunque nel suo lavoro su Piazza Fontana a informazioni che non andavano bene, quindi insomma qui di qui stanno le ragioni politiche. Per quanto riguarda la commissione parlamentare, voi la chiedete e da tempo, vi è stata sempre negata? Il disegno di legge della Commissione Monocamerale è ancora in Commissione Affari Costituzionali e tuttavia il suo percorso, il suo iter di approvazione parlamentare pare abbastanza irto di ostacoli. Non abbiamo per ora avuto una grande risposta politica a tutto questo. Il perché a questo non approvare questa via di accertamento dovrebbe essere chiesto al personale politico di questo Paese. Io credo che una figura come Pierpaolo Pasolini meriti un accertamento che vada fino in fondo, e tanto più ora che sappiamo che il SID aveva monitorato le sue attività. Questa documentazione ci chiediamo esisterà, ne esisterà immaginiamo dell'altra, perché se esisteva una schedatura e sono esistite delle informative, devono esistere anche delle relazioni. È esistita per esempio un'indagine del nucleo antiterrorismo di Bari nel 1975 su questo carteggio Ventura Pasolini che non è attualmente conosciuta. In sostanza, ecco, le fonti trovate fonte rivelano l'esistenza di altre fonti e di altre attività. Chi si deve occupare di tutto questo? Ecco, noi in questo siamo stati solo degli scrittori, dei ricercatori, abbiamo trovato queste fonti negli archivi documentali delle stragi di Piazza Fontana e di Piazza della Loggia, perché erano depositate queste carte in quelle indagini, ovviamente erano non funzionali a questi due processi, quindi sono rimaste nei fascicoli e nessuno se ne è più di tanto occupato, e quindi la nostra è un'attività di mera ricerca che individua nuove fonti che dovrebbero essere da stimolo a una classe politica che dice di voltare pagina, invita a voltare pagina, ma spesso non ci invita a leggere le pagine che vengono voltate. Quindi noi crediamo che prima di voltare pagina sia necessario leggere, tanto più una pagina così importante che riguarda un intellettuale libero, un intellettuale che certamente stava completamente fuori dagli schemi, è un intellettuale di sinistra, indubbiamente un democratico, una persona in grado comunque di criticare il potere, di fare quell'attività che un intellettuale libero in un paese democratico deve fare.